Lelia emise un forte grido. Poi, cercando nella sua voce il tono più severo, disse: Ti ho riconosciuta, sei mia sorella. E se mi tolgo la maschera, Lelia, rispose la cortigiana, non griderai anche tu, vergogna e infamia su di te. Ah, riconosco anche la tua voce, disse Lelia, tu sei Pulcherie. Sono tua sorella, disse la cortigiana, togliendosi la maschera, la figlia di tuo padre e di tua madre, non hai una parola di affetto per me? Oh, mia sempre bella sorella, disse Lelia, salvami, salvami dalla vita, salvami dalla disperazione, portami tenerezza, dimmi che mi ami, che ricordi i nostri bei giorni, che sei la mia famiglia, il mio sangue, il mio unico bene sulla terra. Si abbracciarono piangendo entrambe. Pulcherie era appassionata nella sua gioia, Lelia era triste nella sua. Si guardavano con occhi umidi e si toccavano con mani stupite. Non riuscivano a credere quanto si trovassero ancora belle, quanto si ammirassero e si amassero e quanto fossero diverse l'una dall'altra. Lelia si ricordò improvvisamente che sua sorella era stata profanata. Ciò che avrebbe perdonato a qualsiasi altra creatura umana la fece arrossire nella persona di sua sorella. Era un residuo involontario di quell'insormontabile potere di vanità sociale che si chiama onore. Lasciò cadere le mani che aveva appoggiato a quelle di Pulcherie, rimase immobile, sconvolta da un nuovo sconforto, pallida, con il corpo piegato in due, lo sguardo fisso sul verde scuro dove il lampo si stava spegnendo. Pulcherie fu spaventata da questo atteggiamento ottuso e dal sorriso amaro e gelido che le serpeggiava stupidamente sulle labbra. Dimenticando la degradazione a cui il mondo l'aveva condannata, provò pietà per Lelia, tanto che il dolore ristabilì l'uguaglianza tra le esistenze. Quindi è così che sei, le disse dolcemente, con il tono di voce che una madre avrebbe usato per consolare la figlia in lutto. Ho trascorso molti anni lontana da mia sorella e quando la ritrovo giace a terra come un indumento logoro che nessuno vuole più, soffocando le sue grida con le trecce dei capelli e lacerandosi il petto con le unghie. Eri così quando ti ho presa e ora sei peggio perché allora piangevi e ora sembri morta. Vivevi di sofferenza e ora vivi di niente. Ecco, a cosa sei ridotta, Lelia? Oh mio Dio, a cosa sono serviti tutti quei doni brillanti che ti hanno reso così orgogliosa? Dove ti ha portata il cammino che hai intrapreso con tanta speranza e fiducia? In quale abisso di sventura sei caduta tu che pretendevi di mettere i tuoi piedi sulle nostre teste? Gerusalemme, Gerusalemme, ti avevo detto che l'orgoglio ti avrebbe fatta cadere. Orgoglio? Disse Lelia, che si sentiva ferita nella parte più vulnerabile della sua anima. Ti fa comodo parlare di questo, povera anima smarrita? Chi tra te e me si è più smarrita in questo deserto? Non lo so, Lelia, disse Pulcherie con tristezza. Ho camminato bene in questa vita, sono ancora giovane, ancora bella. Ho sofferto molto, ma non sono ancora stanca, non ho ancora detto, mio Dio, basta così. Hai ragione, disse Lelia sconsolata. Ho esaurito tutto. Tutto tranne il piacere, disse la cortigiana, ridendo con una risata da baccante che la cambiò improvvisamente da capo a piedi. Lelia rabbrividì e indietreggiò involontariamente, poi, avvicinandosi rapidamente, prese il braccio della sorella. E tu, sorella mia? Gridò. Hai provato il piacere? Non l'hai esaurito? Sei ancora viva e sei una donna? Vieni, dammi il tuo segreto, dammi la tua felicità, visto che ce l'hai. No, non sono felice, rispose Pulcherie. Non l'ho cercato. Come te non ho vissuto delusioni, non ho chiesto alla vita più di quanto potesse darmi, ho ridotto tutte le mie ambizioni al godimento di ciò che c'è. Ho messo la mia virtù nel non disprezzarlo, la mia saggezza nel non desiderarlo oltre. Anacreonte ha scritto la mia liturgia, ho preso come modello l'antichità e come divinità le dee nude della Grecia. Sopporto i mali della civiltà esagerata a cui siamo arrivate, ma io, per preservarmi dalla disperazione, ho la religione del piacere. Oh, Lelia, come mi guardi, come mi ascolti avidamente, quindi non mi aborri più. Non sono più la mente stupida e vile da cui un tempo prendevi le distanze con tanto disgusto. Non ti ho mai disprezzata, sorella mia. Una volta mi dispiaceva per te, a quest'ora mi sorprende solo che non mi dispiaccia per te. Oso dire che ne sono entusiasta. Voi, ipocriti spiritualisti, disse Pulcherì, avete sempre paura di sancire le gioie che non condividete. Oh, ora stai piangendo. China la testa, mia povera sorella. Sei piegata e spezzata sotto il peso di questo destino che hai scelto. E di chi è la colpa? Che questa lezione possa esserti utile. Ricorda i nostri litigi, le nostre lotte, le nostre separazioni. Ci siamo predette l'un l'altra. Il destino. Ahimè, avevo previsto che saresti stata disprezzata dagli uomini Pulcherì, abbandonata e in una vecchiaia orribile. Non posso avere ancora ragione. Grazie a Dio sei ancora bella e giovane, ma non hai già sentito la vergogna bruciarti con il suo ferro rosso? Tutta questa folla avida e oziosa che ti cerca in questo momento per soddisfare una curiosità insolente, non la senti ringhiare come una bestia immonda e pericolosa? Non senti il suo fiato caldo che ti insegue e ti contagia? Ascolta, ti chiama, ti reclama come sua preda, cortigiana, tu le appartieni. Se vieni qui, non dire che sei mia sorella. Se ci confondessero insieme, se osassero mettere le loro mani sporche di fango su di me. Povera Pulcherì, ecco il tuo padrone, ecco il tuo dio, ecco il tuo amante, questa gente, tutta questa gente che fa rumore e puzza laggiù. Hai trovato piacere nei suoi abbracci? Vedi bene, mia povera sorella, che sei più vile della polvere dei suoi piedi. Lo so, disse la cortigiana, passandosi la mano sulla fronte bronzea, come per scacciare una nuvola, ma per me sfidare la vergogna è la mia virtù, è la mia forza. Come la tua è quella di evitarla. È la mia saggezza, ti dico, e mi porta alla meta. Supera gli ostacoli, sopravvive a un'angoscia sempre più grande e come prezzo della lotta ho il piacere. È il mio raggio di sole dopo la tempesta, è l'isola incantata dove la tempesta mi getta e se sono svilita, almeno non sono ridicola. Essere inutili, Lelia, significa essere ridicoli. Essere ridicoli è peggio che essere infami. Essere inutili nell'universo è più spregevole che essere di ultima utilità. È vero, disse Lelia cupamente. E poi, disse la cortigiana, cosa importa la vergogna a un'anima davvero forte? Sai, Lelia, che questo potere di opinione davanti al quale le anime chiamate oneste sono così servili, sai che è solo questione di essere deboli per sottomettersi ad esse, che bisogna essere forti per resistere. Chiamate virtù un calcolo di egoismo così facile da fare in cui tutto vi incoraggia e vi premia? Paragonate le fatiche, i dolori, l'eroismo di una madre con quelli di una prostituta, quando entrambe stanno lottando con la vita? Pensi che meriti più gloria chi ha avuto meno problemi? Ma cosa, Lelia? Non rabbrividisci più come un tempo ai miei discorsi? Non mi rispondi a nulla? Questo silenzio è terribile. Lelia, non sei più niente. Sei sbiadita come le onde, come un nome scritto sulla sabbia. Il tuo nobile sangue non si eleva più sulle eresie della dissolutezza, sull'impudenza della materia. Svegliati dunque, Lelia, difendi la virtù se vuoi farmi credere che esiste qualcosa che si chiama così. Parla, donna, rispose Lelia in tono sinistro. Ti sto ascoltando. Infine, cosa ci impone Dio sulla terra? È per vivere, no? Cosa ci impone la società? Non è per rubare. La società è fatta in modo tale che molti individui non hanno altro da vivere che un mestiere da essa autorizzato e da essa marchiato con l'odioso nome di vizio. Sai di che acciaio deve essere fatta una povera creatura per vivere così? Quanti affronti! Si cerca di farle pagare per le debolezze con cui ha sorpreso e le brutalità che ha assecondato. Sotto quale montagna di ignominia e di ingiustizia deve essere abituata a dormire, a camminare, ad essere amante, cortigiana e madre? Tre condizioni del destino di una donna alle quali nessuna donna può sottrarsi, sia che si venda sul mercato della prostituzione, sia che si sposi. Oh, sorella mia, quanto gli esseri pubblicamente e ingiustamente disonorati hanno il diritto di disprezzare la folla che li colpisce con la sua maledizione, dopo averli sporcati con il suo amore. Vedi, se c'è un paradiso e un inferno, il paradiso sarà per coloro che hanno sofferto di più e che avranno trovato sul loro letto di dolore qualche sorriso di gioia, qualche benedizione da inviare a Dio. L'inferno, per coloro che avranno monopolizzato la parte più bella dell'esistenza e che non avranno tenuto conto del suo prezzo. La cortigiana Zinzolina, in mezzo agli orrori della degradazione sociale, avrà confessato la sua fede, rimanendo fedele alla voluttà. L'asceta Lelia, nel profondo di una vita austera e rispettata, avrà negato Dio a tutte le ore, chiudendo gli occhi e l'anima ai benefici dell'esistenza. Ahimè, tu mi accusi, Pulcherie, e non sai se è dipeso da me fare una scelta e seguire un progetto di vita. Sai qual è stato il mio destino da quando ci siamo lasciate? Beh, sapevo cosa il mondo diceva di te, rispose la cortigiana. Vedevo solo che avevi un'esistenza problematica come donna. Sapevo che andavi in giro circondata dal mistero e dall'affettazione poetica e sorridevo con pietà quando pensavo a quella virtù ipocrita che consiste nel trarre la vanità dall'impotenza o dalla paura. Sì, umiliami, rispose Lelia. Ho così poca fiducia in me stessa che non trovo nulla che mi giustifichi. Ma vuoi ascoltare la storia di questa vita morale, così arida e pallida, eppure così lunga e amara? Allora mi dirai se ci può essere un rimedio a dolori così antichi e a scoraggiamenti così profondi. Sto ascoltando, rispose Pulcherie, appoggiando il suo braccio bianco e rotondo sul piede di una ninfa di marmo che si nascondeva sorridente e manierata tra i rami scuri. Parla, sorella mia, raccontami le miserie del tuo destino e prima lascia che ti dica che le conosco in anticipo. Quando pallida ed esile come una silfide passeggiavi nel profondo del nostro bosco, appoggiata al mio braccio, attenta al volo degli uccelli, alla tonalità dei fiori, all'aspetto mutevole delle nuvole, insensibile agli sguardi dei giovani cacciatori che passavano e ci seguivano con gli occhi tra gli alberi. Sapevo già, Lelia, che la tua giovinezza si sarebbe consumata nell'inseguimento di sogni vani e nel disprezzo dei soli vantaggi della vita. Ti ricordi le interminabili passeggiate che facevamo nei campi di nostro padre e le lunghe fantasticherie serali, quando appoggiate entrambe alla ringhiera dorata della terrazza guardavamo le stelle bianche sulla cima delle colline e i cavalieri incipriati che scendevano lungo il sentiero? Ricordo bene tutto, rispose Lelia. Hai seguito con occhio attento tutti questi viaggiatori che già sfumavano nella nebbia del tramonto. Si riusciva a malapena a distinguere i loro abiti e il loro atteggiamento, ma si aveva una predilezione o un disprezzo per ognuno di loro, a seconda che cavalcasse con coraggio o con cautela giù per la collina. Hai riso senza pietà del cavaliere prudente che ha abbassato il piede per trascinare la sua cavalcatura incerta e pigra per le briglie. Hai applaudito da lontano colui che con un trotto fermo e costante affrontava i pericoli della pista veloce. Ricordo che una volta ti rimproverai severamente per aver sventolato in preda all'ammirazione il tuo fazzoletto, per incoraggiare un giovane sciocco che si lanciava al galoppo e che 2 o 3 volte sostenne vigorosamente il suo cavallo mentre stava per rotolare nel burrone. Eppure non mi vedeva né mi sentiva, disse Pulcherie. Eri indignata tu, mia feroce sorella, per l'interesse che provavo per un uomo. Eri sensibile solo alle bellezze sfuggenti della natura, al suono, al colore, mai alla forma distinta e palpabile. Una canzone lontana ti ha fatto versare lacrime, ma non appena il pastore a gambe nude è apparso in cima alla collina, hai distolto lo sguardo con disgusto. Hai smesso di ascoltare la sua voce o di trarne piacere. In definitiva, la realtà ha ferito le tue percezioni troppo acute e ha distrutto le tue speranze troppo esigenti. Non è vero, Lelia? È vero, sorella mia. È vero. Non eravamo simili. Più saggio e più felice di me, tu hai vissuto solo per godere. Più ambiziosa e meno sottomessa a Dio, forse io ho vissuto solo per desiderare. Ricordi quel giorno d'estate così pesante e caldo, quando ci fermammo presso il ruscello sotto i cedri della valle, in quel rifugio misterioso e oscuro dove il fruscio dell'acqua, che cadeva di roccia in roccia, si mescolava al triste canto delle cicale. Ci sdraiamo sull'erba e mentre guardavamo attraverso gli alberi il cielo infuocato sopra le nostre teste, cademmo in un sonno pesante, in una profonda spensieratezza. Ci siamo svegliate l'una nelle braccia dell'altra, senza sentire più sonno. A queste parole, Pulcherie rabbrividì e strinse la mano della sorella. Sì, me lo ricordo meglio di te, Lelia. È un ricordo bruciante nella mia vita e spesso ci ho pensato con un'emozione piena di fascino e forse di vergogna. Per vergogna, disse Lelia, ritirando la mano. Non lo sapevi? Non lo immaginavi? Disse Pulcherì. Non avrei mai osato dirtelo allora, ma ora posso dirti tutto e tu puoi imparare tutto. Ascolta, sorella. È stato tra le tue braccia innocenti, è stato sul tuo seno virginale che per la prima volta Dio mi ha rivelato la potenza della vita. Oh, non andare via così. Ascolta senza pregiudizi. Senza pregiudizi? Disse Lelia avvicinandosi. Come sono prevenuta? Si tratterebbe di una convinzione di qualche tipo. Parla, raccontami tutto, sorella. Bene, disse Pulcherì. Abbiamo dormito tranquillamente sull'erba calda e umida. I cedri esalavano il loro squisito profumo di balsamo e il vento di mezzogiorno passava le sue ali infuocate sulle nostre fronti umide. Fino ad allora, spensierata e ridente, ho accolto ogni giorno della mia vita come un nuovo beneficio. A volte sensazioni improvvise e penetranti mi facevano ribollire il sangue. Un ardore sconosciuto si impadronì della mia immaginazione. La natura mi apparve con colori più scintillanti. La giovinezza pulsava più vivacemente e ridente nel mio petto. E se mi guardavo nello specchio, mi trovavo in quei momenti più rubiconda e più bella. Poi ho voluto baciarmi nello specchio che mi rifletteva e mi ispirava un amore folle. Allora ridevo e correvo più forte e più leggera tra l'erba e i fiori, perché per me nulla si rivela attraverso la sofferenza. Non mi sono affaticata come te a indovinare, ho trovato perché non stavo cercando. Quel giorno felice e sereno ero così contenta. Uno strano sogno, delirante e inaudito, mi rivelò il mistero che fino ad allora era stato impenetrabile e silenziosamente rispettato. Oh, sorella mia, nega l'influenza del cielo, nega la santità del piacere. Se questa estasi ti fosse stata concessa, avresti detto che un angelo inviatoti dal seno di Dio si era incaricato di iniziarti alle sacre prove della vita umana. Ho semplicemente sognato un uomo dai capelli neri che si chinava su di me per sfiorarmi le labbra con le sue labbra calde e rubiconde. E mi sono svegliata, oppressa, palpitante, felice, più di quanto avessi mai immaginato di essere. Mi guardai intorno, il sole splendeva sul fondo del bosco. L'aria era dolce e soave e i cedri alzavano i loro grandi rami, digitati come immense braccia e lunghe mani tese al cielo con splendore. Allora ti ho guardata, sorella mia, quanto eri bella. Non ti avevo mai pensata così prima di quel giorno. Nella mia compiaciuta vanità di ragazza mi preferivo a te. Mi sembrava che le mie guance splendenti, le mie spalle arrotondate, i miei capelli dorati mi rendessero più bella di te. Ma in quel momento il senso della bellezza mi si rivelò in un'altra creatura. Non amavo più solo me stessa, avevo bisogno di trovare un oggetto di ammirazione e di amore al di fuori di me. Mi sono sollevata delicatamente ti ho guardata con una strana curiosità, con uno strano piacere. I tuoi folti capelli neri si sono attaccati alla fronte e i loro riccioli stretti si sono arrotolati su se stessi, come se un sentimento di vita si fosse aggrappato al tuo collo vellutato di ombra e sudore. Ho fatto scorrere le dita tra di essi. Mi sembrava che i tuoi capelli li stringessero e mi attirassero verso di te. La sottile camicia bianca, stretta sul petto, faceva apparire la pelle abbronzata dal sole ancora più bruna del solito. e le lunghe palpebre abbassate dal sonno si disegnavano sulle guance, che allora erano più solide e toniche di adesso. Oh, eri bellissima, Lelia, ma bella in modo diverso da me, e questo mi turbava stranamente. Le tue braccia, più magre delle mie, erano ricoperte da un'impercettibile lanugine nera che la cura del lusso ha poi rimosso. I tuoi piedi, così perfettamente belli, erano immersi nel ruscello e le lunghe vene blu erano visibili. Il tuo respiro sollevava il petto con una regolarità che sembrava annunciare calma e forza. E in tutti i tuoi lineamenti, nel tuo atteggiamento, nelle tue forme, che erano più fisse delle mie, nella tinta più scura della tua pelle, soprattutto in quell'espressione fiera e fredda del tuo viso addormentato, c'era qualcosa di maschile e forte che quasi mi impediva di riconoscerti. Mi sei sembrata il bellissimo bambino dai capelli neri che avevo appena sognato e ti ho baciato il braccio tremando. Poi hai aperto gli occhi e il tuo sguardo mi ha penetrato con una vergogna sconosciuta. Io mi sono voltata come se avessi compiuto un atto riprovevole. Eppure, Lelia, nessun pensiero impuro mi era venuto in mente. Come è potuto accadere? Non sapevo nulla. Ricevevo dalla natura e da mia maestra e creatrice la prima lezione d'amore, la mia prima sensazione di desiderio. Il tuo sguardo era beffardo e severo, è così che ti ho sempre conosciuta, ma non mi aveva mai intimorito come in quel momento. Non ricordi la mia confusione, il mio rossore? Ricordo anche una parola che non riuscivo a spiegarmi, rispose Lelia. Mi hai fatto sporgere dall'acqua e mi hai detto: "Guardati, sorella, non credi di essere bella?" Ho risposto che ero meno bella di te. Oh, sei molto più bella, hai detto. Hai l'aspetto di un uomo. E questo ti ha fatto alzare le spalle in segno di disprezzo, disse Pulcherì. E non immaginavo, rispose Lelia, che per te si fosse appena compiuto un destino, mentre per me non si sarebbe mai compiuto alcun destino. Comincia la tua storia, disse Pulcherì. Il rumore della festa si è spento. Sento l'orchestra che riprende la melodia interrotta, ma tu sei stata dimenticata. E rinunciano a cercare anche me. Possiamo essere libere per un po'. Parla.